che ciò viene lento di vagare, una musica brutale incendiò nostra passione. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa mattina, uscito dalla metropolitana, colsi improvvisamente, con una sorta di fulminazione, una frase di saggezza che ho immediatamente posto nel mio profilo di Facebook. E immediatamente questa ha sortito una tale reazione intensa e profonda che penso che sarà l'argomento di oggi, anche se l'argomento deve essere un altro. La frase è: non c'è spazio per allocchi nel paese dei balocchi. Sono convinto non ci sia spazio per allocchi nel paese dei balocchi. Ma da questa frase ne sortisce un'altra, immediatamente contraria e speculare, che però ne dà un senso ancora più esteso, e vi prego di riflettere sul fatto che non ci sia spazio per balocchi nel paese degli allocchi. Già alcuni ascoltatori hanno posto i loro commenti, e addirittura Federico, a cui sono molto grato, mi dà l'etimo sia dalla parola balocco che dalla parola allocco, che entrambi mi sono rimbalzate nella mente improvvisamente questa mattina in quella sorta di mercatino all'uscita della metropolitana della stazione Termini. Balocco viene da badalucco, che è una cosa che si tiene in mano. Badaluccare è un trastullo, un gingillo, dicesi per lo più di cose che si danno in mano ai bambini per tenerli a bada. Allocco invece ha una radice: urlé, gridare, urlare. I latini ebbero anche la lucus. Gli antichi ritenettero che questo fosse un uccello dal grido particolarmente stridulo. Comunque l'allocco è naturalmente un uccello, ma viene inteso anche, riferito a un uomo goffo, a un uomo balordo. Perché questa mattina mi rimbalza in testa questa sorta di incongruenza tra balocco e allocco, soprattutto il paese dei balocchi? Il paese dei balocchi è un luogo meraviglioso, è un luogo fantastico, un luogo che nel libro di Pinocchio viene allucinato come il sogno immaginifico e proibito di ogni scolaro. Nel paese dei balocchi ci si viene trasportati da un viscido e untuoso omino di burro che, con una carrozza trainata da ciuchi, porta i bambini nel paese dei balocchi. Naturalmente nel paese dei balocchi c'è una metamorfosi. I bambini, che hanno tradito il loro dovere di bravi studenti, qui è l'etica fortemente, profondamente massonica di Collodi, vengono puniti, trasformano in asini, perdono il lume della conoscenza e diventano dei bruti, diventano degli asinelli. Quindi nel paese dei balocchi ci si illocchisce, ci diventa meno che umani. Ma io trovo che realmente oggi siamo in un paese di allocchi. Non riferisco al nostro paese, riferisco generalmente al clima che respiriamo. In un paese di allocchi in cui non ci sia posto assolutamente per balocchi. I balocchi e gli allocchi non riescono a convivere, tanto che il Consiglio di Amministrazione della TV pubblica giorni fa ha deliberato che non ci sarà più la TV dei ragazzi. Dal ottobre del 2010 non andranno più in onda quegli ultimi barlumi, quei cascami residui di quella che intendevamo la TV dei ragazzi, che è stata la nostra nutrice e quella che noi abbiamo riconosciuto per primi come raccontatrice di storie per noi. Noi siamo la generazione del 54, quelli che sono stati concepiti su un tavolino di formica svedese di fronte a un televisore acceso. Quindi pensate quanto è forte l'onte, quanto è forte la deprivazione per questo ultimo barlume della nostra fanciullezza che scompare. Ma allo stesso tempo, visto che viviamo nel paese degli allocchi, non siamo nemmeno d'accordo con il grido delle vestali, la TV rubata ai bambini. Ieri c'era un paginone di Repubblica in cui due stimati e simpatici colleghi, Edmondo Berzelli e Leandro Palestini, piangono, fanno una prece per la scomparsa della televisione dei ragazzi. E Palestini in particolare dice che è morta la grande nutrice, la grande babysitter dei bambini. Oggi i ragazzini sono allevati con amici di Maria De Filippi, con tutti quei tristerrimi contenitori pomeridiani. Qualcosa è cambiato. La regola degli allocchi si è mangiata al paese dei balocchi, o perlomeno quello che noi pensavamo al paese dei balocchi. Beh, questa mattina vi darò dei brevissimi flash di quello che io intendevo il paese dei balocchi, quando ancora pensavo che esistesse la realtà dei balocchi completamente staccata e percorribile a mio piacere rispetto al mondo degli allocchi. Oggi che vivo spalmato, distrutto, soffocato nel paese degli allocchi, ho un po' di nostalgia per quei miei balocchi, ma non sono proprio convinto che in realtà quei balocchi siano nella TV dei ragazzi. 800240024. Siete allocchi o ancora amate il paese dei balocchi? Voi pensate ci sia posto per gli allocchi nel paese dei balocchi? Ma c'è posto per balocchi nel paese degli allocchi. La scuola mi ha spedito la tua pagella. La pagella è molto brutta. Beh, per la verità mi sembra la migliore che tu abbia mai avuto. Il voto più brutto è un 7. Quindi ti sei meritato quella ricompensa che ti avevo promesso. Vediamo un po'. Se per caso ti regalassi... Se ti regalassi la mia carabina calibro 22 come tuo primo fucile, che ne diresti, eh? Sì, sarebbe meraviglioso. Beh, ma ricorda, non è un giocattolo, è sempre un'arma ed è molto pericolosa. Sì, signore. Sentiamo, qual è la prima cosa da fare? Pararsi a un piede, probabilmente. Oh, Pete. Si apre l'otturatore e si guarda se ci sono cartucce in canna. Bravo. Hai visto, Furia? L'ho centrato con il mio primo colpo di carabina. Ma di cosa ha paura? Questo era il piccolo amico di Furia, cavallo del West. È un ricordo vivido che viene dalla mia fanciullezza di frequentatore del paese dei balocchi. Il paese dei balocchi, in cui non c'è posto per allocchi, è quello in cui un padre, perché ha avuto un bel voto in pagella, ti regala un fucile vero. Il sogno di tutta la mia vita, aver avuto un fucile vero da bambino. L'ho sognato tantissimo. Il papà di Fura regala al ragazzino, che adesso non ricordo bene come si chiami perché non trovo la scheda di Fura a cavallo nell'West, un vero fucile, un piccolo Winchester calibro 22. E dice esattamente, dice, tu sai come ci si comporta. Certo papà, subito, si vuota l'otturatore, si guarda se dentro non ci sono colpi in canna. E un istante dopo è già lì a sparare fucilate sopra un paglione, un mucchio di balle di fieno. Beh, trovo che in realtà il sogno proibito del balocco dirompente, del fucile, era qualcosa che riempiva la nostra fantasia di sogni inenarrabili. Pensate quanto oggi nel paese degli allocchi possa essere concepito un padre che regala a un figlio un fucile vero, un fucile che spara anche se calibro 22, è una munizione di piccolo calibro, ma munizione che può essere letale, munizione capace comunque di uccidere, quindi un fucile vero, quindi una grande responsabilità. Ma Furia cavallo dell'West naturalmente viveva nell'West con il suo bambino e l'West sa, ha territori sterminati. Oggi sarebbe pericoloso regalare una fionda a un bambino, probabilmente chiamerebbero il telefono azzurro, il vicino di casa ci denuncerebbe. Pensate che questa mattina i giornali sono pieni della scandalosa operazione di Beppe Bigazzi. Beppe Bigazzi, quell'antipatico signore che racconta le ricettine di una volta in televisione, ha osato raccontare la vicenda del gatto bollito alla vicentina. Argomento su cui noi facemmo un'intera trasmissione. All'inizio di questa stagione ne parlammo per un'ora. Ma perché nessuno a noi ci ha denunciato? E perché l'Italia gattara si è rivoltata contro il Beppe Bigazzi a televisione? Perché? Perché non c'è spazio per balocchi nel paese degli allocchi. Furia, Pete è in pericolo, dobbiamo aiutarlo. Presto, inginocchiati, fammi salire. Gli concedo ancora 15 minuti. Se per allora non si sarà fatto vivo. Ehi, mi hai portato una bella bestia. Mi serviva un poledro così. Potrò riaverlo, signore. Certo, te lo mando per pacco postale. Ricorda, Furia, sta buono. Finché non è montato in sella, poi impinnati come sai fare tu. Può anche prenderlo, signore. Avanti, muoviti. Su, metti i piedi qui. Via, Furia, scappa! Bravissimo, Furia! Buttala a terra! Furia, cavallo del West, che va più forte di un jet, quando fa il pieno di pelo, se no non sa che. Furia, cavallo del West, che beve solo caffè per mantenere il suo... Naturalmente, l'orrenda sigla di Furia, che allora ci piaceva tanto, uccideva tutta la poesia di questo meraviglioso mix fatto di cavalli selvaggi che rispondevano come esseri umani al comando del bambino. Fura faceva tutto, andava sui pattini, ballava il tango, colpiva con il karate i nemici. Fura era un cavallo meraviglioso, ma Furia permetteva di trasformare il mondo degli allocchi che lentamente cominciavamo a conoscere in una porticina aperta verso il paese dei balocchi. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno. Bene. Parliamo del paese dei balocchi o parliamo degli allocchi? Decida lei. Tutte e due, nel senso che io sono anni che non ho più la televisione in casa con famiglie e bambini e devo dire che sono molto contento. Quindi il discorso che ci sia una trasmissione per bambini più o meno, a me piaceva moltissimo l'albero azzurro, però insomma non mi tange più di tanto. Ho chiamato perché secondo me in Italia si va sempre più a differenziare i bambini dagli adulti in settori sempre più piccoli, in modo che gli allocchi non si possano, non abbiano bisogno di guardarsi e specchiarsi nei bambini e riconoscersi tali. Cioè, secondo lei c'è una, si comincia ad avere una differenziazione molto netta tra mondo dei bambini e mondo degli adulti? Sì, fondamentale. E il mondo dei bambini viene anche diviso in settori sempre più piccoli. I bambini piccoli piccoli, quelli un po' più grandi, quelli più grandi ancora. Ma lei ha figli, vero Massimiliano? Sì, ho figli. Ecco, si ricorda l'incubo dell'acquisto del pannolino? Quelli viola, per, diciamo, da un certo peso in poi, e quelli verde chiaro da un certo peso in poi. Io mi sbagliavo sempre, prendevo quelli viola quando in realtà dovevo prenderli verdi. C'era già una classificazione dei bambini in base alla quantità di cacca e pipì che facevano, e mi sbagliavo sempre il colore dei pannolini. E i pannolini dei bambini erano uno scaffale in cui c'era questa scelta policroma. Accanto c'erano i pannoloni per gli anziani, c'era solo un modello con la croce sopra, che già sembrava che fossero destinati a coloro che sono belli pronti ad essere seppelliti. Io non ho mai avuto grandi problemi nella scelta del pannolino, nel senso, al massimo sbagliavo e poi lo tenevo per il figlio successivo, insomma, o lo regalavo a qualcuno. Il problema era proprio l'impatto della prima cacca, come si cambia il pannolino, quello sì. Sì, io mi ricordo, questo sì. Però diciamo, stiamo uscendo dal seminato. Noi siamo partiti dalla notizia, che è stato grande scandalo, dell'abbandono della televisione ai ragazzi, che in realtà la televisione aveva già abbandonato da gran tempo i ragazzi, perlomeno questo ruolo di apertura verso delle porte fantastiche, verso il paese dei balocchi. La televisione cosiddetta per ragazzi era ormai un prodotto molto di nicchia, molto chiuso, e soprattutto prevedeva che le giornate dei ragazzi fossero scandite dai tempi molto ben precisi. Noi il pomeriggio stavamo a casa, fatti i compiti, non c'era nulla da fare che stare a casa. Oggi la vita dei ragazzi in realtà ha un ruolino di marcia terrificante, dalla piscina, dall'arte marziale, dal pianoforte, dalle attività fisioterapiche, dalle lingue straniere, tutte cose giuste e lecite. Oggi il ragazzo non ha più questi lunghi, eterni pomeriggi da passare con il Lego davanti al termosifone, o a fare piccoli giochi casalinghi e avere l'appuntamento alla TV dei ragazzi. Oggi è una giornata frenetica, molto più di quella dei suoi genitori, quindi comunque la TV dei ragazzi era soltanto, ormai rimasta, una sorta di pallido fantasma, d'accordo? Sì, ma anche l'arrampicarsi sugli alberi, l'uscire fuori in un posto non organizzato, non strutturato, e poter giocare e sperimentarsi con altri in un gerbido, in un posto non strutturato, adesso questo non c'è più. E la TV perché si difende sempre di più il bambino dai pericoli, dall'insicurezza dei genitori. Nessuno regalerebbe un fucile calibro 22 a un bambino senza essere arrestato. Nessuno regalerebbe un fucile calibro. Sì, non è che sì. Sì, però l'arrampicarsi su un albero, anche col rischio di cadere, è fondamentale per la crescita del bambino. Se si rinuncia al pericolo, si rinuncia alla crescita. Eccolo, abbiamo capito perché siamo un paese di allocchi, perché abbiamo rinunciato a lasciare i figli liberi a scorazzare nel paese dei balocchi, che si sa è pieno di rischi, ma serve anche quello. Geronimo ha aspettato con ansia questo giorno. Il colonnello oggi morirà. Fiorenti! Yeah! Attacchiamoli! L'epica musicale accompagnava sempre l'avventura, ad esempio, di Rin Tin Tin. Rin Tin Tin era un cane, anzi, era un cane che molte volte cambiava, era un pastore tedesco. Rin Tin Tin stava con questo bambino terrificante, piccolo nano vestito da soldatino. È una sorta di mascotte dei soldati americani, nordisti, naturalmente, e faceva quindi la guerra assieme a loro, perlomeno non era una guerra cruenta, in realtà avevano degli scontri con gli indiani, con i Pelle Rossa, e ne uscivano sempre vincitori. Quindi anche il piccolo Rusty, mi sembra che si chiamasse, padroncino di Rin Tin Tin, aveva in sé una sorta di iniziazione bellica, come il bambino di Fura a cavallo nell'Ouest. Comunque per lui il paese di balocchi era un paese di balocchi che comunque ricostruivano in piccolo quelli che sarebbero stati i cimenti che uno si immaginava e potrebbe aver avuto da grande. Che ne sapeva quel bambinello, che in realtà sarebbe stato un periodo schifosissimo anche da quel punto di vista, in cui le guerre, le battaglie non avrebbero mai più avuto nulla di epico, nulla di glorioso, nulla di raccontabile come grande avventura, ma sarebbero state soltanto brutte, schifosissime e terrificanti guerre. Mai più una guerra può essere raccontata in maniera edulcorata per ragazzini. Quel paese dei balocchi, la scomparsa di quel paese balocchi in questo racconto tenero, lontano, irreale, probabilmente ha generato una grandissima genia di Allocchi. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo dire che secondo me la televisione dei ragazzi non esiste più perché non interessa più i pubblicitari, perché tanto ormai i ragazzini comprano telefonini, comprano le stesse cose che vedono nella pubblicità degli adulti, hanno i loro soldi, quindi ai pubblicitari non interessa più avere un pubblico dedicato a cui fare pubblicità dedicate, e quindi di riflesso non interessa più la televisione farla. Ecco, lei dice una cosa esatta, perché noi ci stiamo riferendo a un momento in cui la televisione aveva una sorta di vocazione etica nei confronti del pubblico che ammaestrava. Era la televisione di Bernabei quella che noi stiamo in qualche maniera allucinando ogni volta come grande icona del nostro glorioso passato. Una volta che la nostra generazione sarà soppressa dal corso della natura, nessuno rimpiangerà più quella televisione, ce la ricorderemo come oggi si raccontano le antiche parabole o le favole o i racconti dei tempi che furono. La televisione di Bernabei comunque aveva questa sorta di idea che la televisione fosse uno degli strumenti non tanto di educazione ma proprio di catechesi della famiglia italiana. Quindi gratuitamente si occupava di pomeriggio i ragazzi. I ragazzi stanno a casa naturalmente il pomeriggio e la televisione deve dare dei sani momenti formativi per i ragazzi. Quando la televisione è diventata, e non dico che non mi straccio le vesti, è normale che sia così, è un'industria quella televisiva, è un business, dà lavoro a tante persone, provoca indotto, crea comunque ricchezza e quindi in qualche senso deve naturalmente anche essere sottoposta a leggi economiche. Quindi la televisione a un certo punto è stata sottoposta al fatto che dovesse perlomeno essere sostenuta dagli introiti pubblicitari. E quindi giustamente ha detto lei, a un certo punto la televisione se ne è altamente fregata di fare il paese dei balocchi per i ragazzi, i ragazzi baloccatevi un po' per conto vostro. Noi presentiamo ai ragazzi quello che noi pensiamo che sia giusto che loro acquistino. E quindi se è cominciato a creare una sorta di livellamento tra mondo degli allocchi, che in maniera vaga e indefinita, forse un po' sommaria, definisce il mondo degli adulti, e mondo dei ragazzi che non hanno più paese dei balocchi perché i loro desideri, quindi i loro consumi, sono gli stessi dei loro genitori. Ha letto giustamente, la PlayStation in famiglia è oggetto di uso comune, soprattutto quelle più invasive, più legate al rapporto fisico, quelle che ci si muove, si gioca a tennis, ci si sloga i polsi giocando davanti a un televisore. E la stessa cosa vale per i telefonini, gli oggetti consumer di tecnologia sono oggetti che valgono sia per i grandi che per i piccoli. Carla, buongiorno. Buongiorno, volevo intervenire in merito a questa divisione di cui parlava lei prima, di fasce d'età dei bambini. Io parlavo di pannolini. Rispetto ai pannolini, ma la cosa secondo me è ben più grave, perché il bambino va inserito bene in determinati schemi da consumatore, diciamo così. Quindi quello che interessa è imbrigliarlo bene sia rispetto a una fascia d'età, sia rispetto al sesso. Mi spiego, non so se ha notato, ci sono dei canali nuovi che sono nati dedicati a femminucce, quindi dei canali per femminucce. Questo perché secondo me? Forse per indirizzare lì una determinata pubblicità, per creare già la piccola donnina o il piccolo metto molto più di quanto non si facesse prima, quando si metteva magari il ricamo in mano alla bambina o il fucile in mano al bambino. Quindi secondo lei c'è un ritorno alle origini, a maniere antiche, da classe differenziata nello specifico, sì, della televisione? Sì, classe differenziata, però volta soprattutto sui differenziata, divisa, un differenziata un'altra cosa. Perfetto, un consumatore al quale io so come rivolgermi, perché gli creo degli interessi ben più specifici, la femminuccia all'orecchino, tant'è vero, come dicevo prima ai suoi colleghi, quando io ho due maschietti, quando vado a comprare un quaderno, un semplice quaderno, mi chiedono puntualmente per maschietto o per femminuccia. E io lo trovo una cosa gravissima, perché... Ma lei non trova, le faccio una domanda... Può essere libero di essere attratto, per esempio, da un fiore. Sì, da... sì, ma poi gli zainetti, non ne parliamo per gli zainetti, sono quelli rosa, gli fucsia. Zainetti, sì. Gli zainetti in prima elementare, dico prima elementare, non c'era un bambino che avesse uno zainetto che non fosse con un personaggio altamente aggressivo, cioè il bambino, il maschietto si deve identificare nell'aggressività e la femminuccia si deve identificare nella donnina glamour, nella... Però signora, le faccio una domanda provocatoria pochi istanti prima dell'informazione della borsa e poi mi risponderanno gli ascoltatori all'800240024. Come mai il paese dei balocchi, che oggi viene costruito dai bisogni della pubblicità, è così granitico nel determinare i generi, le preferenze di genere, i gusti? E com'è invece il paese degli allocchi sembra così indifferenziato? Com'è oggi gli adulti sembra non facciano più tanta differenza nei gusti, nelle attrattive, nei generi di consumo? Com'è le pubblicità dei profumi, degli abiti hanno ormai degli esseri androgeni che non sono uomini e donne? Com'è i maschietti, soprattutto nel paese degli allocchi oggi, sono così attratti da questa sorta di simulacro indifferente, che non si sa bene se sono uomini, donne, essere indifferenziati? Com'è è così feroce, così violenta, così determinata differenziazione quando sono piccoli consumatori e quando diventano allocchi sembra che per loro sia uguale maschio, femmina o una via di mezzo fra maschio e femmina? Melog 2.0. Ah, rosa, rose, rose, ma com'è difficile latino, chi mi aiuta a fare la lezione sulla prima declinazione. Io, io, io, io, io, io. Oggi merenda sui prati, io metto pane e ciliegie, avanti con... Allora, Fabrizio Intonti e il professor Alessandro Chiappini, in omaggio all'ascoltatore Mario, nella pausa delle informazioni per la borsa, hanno preso da YouTube questa canzoncina. Mario, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Micoletti. Le si è spalancato il cuore? Le si è spalancato il cuore? Ma sì, ma io guardi, sono sorpreso, perché di tanta spazzatura televisione che vediamo, piuttosto ci proprimano mille volte Colombo, piuttosto che la signora Fletcher, ma non riescono la RAI mai andare a ripescare robe di questo genere. E cos'era? Lo racconti lei, poi entro nei particolari. Di cosa sì. Si trattava? Allora, si trattava, io mi ricordo che c'era, io sono cresciuto con la oltre al Non è mai troppo tardi, anche con Silvano Tranquilli, Ragazzi di Padre Brown. Padre Tobia, Padre Brown, beh, sì. Certo. Esatto, ragione, che c'era la canzone Chi trova un amico trova un tesoro, noi siamo i ragazzi più ricchi del mondo. I ragazzi di Padre Tobia era, diciamo, la prima fiction da catechismo, era ambientata in una parrocchia, c'era questo Padre Tobia che era Silvano Tranquilli, che è un grande attore di teatro, anche morto secondo me in maniera un po' tragica, che era un giovane sacerdote che risolveva dei piccoli gialli, un po' come Padre Brown, che però è di altra latitudine, insieme a tutta la congrega dei ragazzi dell'oratorio. C'era Giacinto, si ricorda, il sacrestano, che era un caratterista abbastanza noto, Franco Angrisano. I testi erano di Casacci e Gianbricco, che era una coppia importante la televisione di quegli anni. Insomma, allo stesso tempo invocavano, esortavano e rappresentavano la vita dell'oratorio. Iniziava nel 68, un momento molto pericoloso per l'integrità dei ragazzi. Lei come li ricorda, Ragazzi di Padre Tobia? Sì, sì, e sulla scia appunto di questi programmi io mi ricordo che c'erano, mi pare che fossero due ragazzi e una ragazza, che avevano anche questo cappello di paglia, che viaggiavano su questo battello sul Mississippi, e la sigla partiva sempre con questa ruota che girava, e io sinceramente ho perso, non mi ricordo. Probabilmente era Tom Sawyer. Forse sì, credo proprio di sì, anche quello era molto bello, io me lo ricordo. Lo stai parlando di classici per la gioventù che fanno tremare le vene nei polsi, capito? Ma però Ragazzi di Padre Tobia era un prodotto autarchico, autoctono, certo. In poche realtà del mondo esisteva la parrocchia come bene comune da distribuire, come nell'Italia degli anni del monocolore democristiano, e quindi quando si cominciò a sentire aggredita questa lettura unica del passatempo infantile, partirono i ragazzi Padre Subito, e fu una serie molto importante, ma fu, è stata soltanto questa una nostra rapida digressione, soltanto per compiacere la nostalgia, forse un po' confusa fra tanti preti e la sua fanciullezza, del nostro ascoltatore. Torniamo a parlare di cose serie. Là sulla duna, quando brilla la luna, spunta il nostro eroe Zorro, che lascia il suo segno, una Z a che impegno, la Z che vuol dire Zorro. Zorro, Zorro, lui ha la vita segreta. Oggi di Zorri ce ne sono talmente tanti che è difficile ritrovare quello originale, anche perché quello originale oggi lo vediamo a colori, ricolorato nei canali tematici di Sky, e quindi non è più il lo Zorro della nostra, dei primi anni della nostra fanciullezza, che era rigorosamente in bianco e nero. E poi c'è lo Zorro Banderas, poi c'è lo Zorro di Isabella Allende, poi c'è un'infinità di altri Zorri, Zorri e Sottozorri. Zorro è uno e sono tanti, tutti noi siamo stati Zorro. Io partecipai anche tanti anni fa al raduno mondiale degli Zorro, organizzato a Oristano da un artista scomparso, era Filippo Martinez, che dopo essere morto organizzò questo meraviglioso raduno mondiale degli Zorro. E mi resi conto che Zorro esisteva nell'immaginario di ogni ragazzino, ognuno di noi era stato Zorro. È la maschera più banale, più semplice, più vigliacca dei genitori che non hanno tempo, non hanno voglia di pensare alla mascheratura dei figli, gli comprano una mascherina nera di cartone, gli fanno dei baffetti finti con la matita degli occhi della mamma, una spadina di plastica e uno straccio, un foulard, qualcosa, eccolo trasformato in Zorro, con un cappello del nonno. Quindi Zorro rappresentava il massimo dell'eroe raggiungibile. Nel paese degli allocchi c'è più posto per Zorro? No, Zorro è completamente scomparso. Zorro non potrebbe più esistere nel paese degli allocchi, eppure Zorro rappresenta il più formidabile dei nostri balocchi. Davide. Pronto, buongiorno. Lei ha mai vestito da Zorro? Sì, sì, ecco. Mi sono vestito da Zorro, molto da piccolino, ma mi sono vestito da Zorro. È vero che dietro cosa... quella maschera si apre improvvisamente un universo. Quando uno mette la mascherina di Zorro, improvvisamente il mondo scompare. Il mondo degli allocchi scompare e si entra nel mondo di Zorro. Sì, sì, sì, a quell'età sicuramente, a quell'età, l'età del sogno, insomma, l'età in cui uno... Guarda che oggi è martedì grasso, oggi ancora fa in tempo. Oggi pomeriggio ci sarà un evento irripetibile e irrinunciabile in cui alcune persone dimostreranno che il martedì grasso ancora si può uscire dal mondo. Lei perché non si maschera da Zorro oggi? Ma mi sono mascherato da 6-1-0, ho preferito giocare con i miei figli. Ma quello tutta la vita, che vuol dire? Una volta tanto uno può provare a essere Zorro. Sì, no, volentieri, penso che sia una cosa che si possa fare, non mi vergognerei sicuramente. Oggi si può fare tutto, è l'ultimo giorno in cui si può fare tutto, domani mattina, almeno chi non è in area milanese, che il carnevale ambrosiano mi sembra che continui ancora un po' più, domattina andremo tutti a farci mettere la cenere in testa, ci pentiremo di una notte passata in lussure, carnalità, alcol e sprocedatezze, e la vita ritornerà normale, ma è l'ultimo barlume in cui si può avere un gioioso affronto del paese degli allocchi, non rinunci al paese dei balocchi. Allora Davide, lei cosa vuole dire però? Sui videogiochi vuole parlare. Sui videogiochi, sì, so di questo videogioco che è appena uscito, che dove praticamente vince chi colleziona più stupri. Ah sì, allora, l'hanno un po' pubblicizzato, un gioco di origine giapponese, non credo sia esattamente così, comunque non è una cosa da mettere in mano ai bambini, questo è chiaro. Esatto, esatto, esatto, però purtroppo oggi è difficile veramente riuscire a togliere la possibilità ai bambini e ai ragazzi di mettersi in contatto con questa cosa qui, o uno fa i carabinieri. Però posso dirle una cosa? No, posso dire una cosa, dunque uno innanzitutto deve conoscere il mezzo. E se uno non conosce il mezzo, va, prende il primo videogioco, compra il videogioco giapponese che parla di un'estetica e di un erotismo che è molto lontano dalla nostra sensibilità. Quello che noi intendiamo come stupro per i giapponesi è una cosa articolata in maniera diversa. Occorre essere adulti e capire esattamente la cultura a cui ci si riferisce. Non è una cosa da dare in mano ai bambini. Invece, con mio figlio che ha 14 anni, io ho giocato molto volentieri in questi giorni con un videogioco che è la Divina Commedia di Dante, l'Inferno di Dante trasformato in videogioco. Ah, è stato meraviglioso perché ci si entra, è una grafica stupenda. Dante è un guerriero crociato da andare a riprendersi Beatrice nell'inferno, un po' come Orfeo, e affronta Minosse, affronta tutti i grandi demoni dell'inferno, e a un certo punto Dante ha anche possibilità di graziare dei dannati. Quindi noi abbiamo graziato Paolo e Francesca abbiamo mandato in paradiso, e invece Farinata degli Uberti ci stava antipatico, l'abbiamo rificcato nel suo avello infuocato. Questa è una maniera di usare comunque il paese dei balocchi, perché si spera che i figli diventino meno allocchi. Esatto, esatto, sì, no, sono d'accordissimo con questo. È vero che, come lei dice, le culture non sono uguali, però credo che su alcune questioni di fondo ci debba essere comunque uno stop, insomma, che sì, ma guardi, nessuno ha mai pensato di mettere all'indice, non pubblicare tutta la narrativa libertina, De Sade ad esempio. I libri De Sade sono dei manuali di nefandezze, però fanno parte della storia della nostra letteratura. Io non li metterei mai in mano a un bambino minorenne, ma nell'età giusta va letto De Sade, perché è una chiave di lettura dell'umanità, del profondo e via dicendo. Il gioco giapponese, che non conosco, non posso giudicare se non lo vedo in profondo. Io feci una battaglia contro i censori di Rule of Rose, che fu un gioco che uscì qualche anno fa, e Panorama fece una copertina dicendo c'era nefandezza. Era un divertente giochetto per adulti o per ragazzi, diciamo, di una certa età, che raccontava una sorta di cammino di affrancamento di un'orfanella in un collegio, molto simile a una certa letteratura di orfani e orfanelle che abbiamo ben conosciuto, però con delle tinte lievemente angoscianti. Ma non era nulla che potesse istigare all'omicidio, allo stupro, alla violenza. Bisogna stare un po' attenti. Sono strumenti forti, ma equivalgono al libro. La nostra generazione poteva essere molto influenzata a letture di libri. La generazione contemporanea può essere molto influenzata a letture, da giocare in avventure immersive. L'importante è che i genitori sappiano cosa la mettono in mano ai figli. Maurizio. Buongiorno. Eccomi qua. Oh, intanto, se me lo consente, complimenti per la trasmissione. No. Mi faceva piacere parlare con lei, perché io la seguo da quando faceva il critico su Radio 1 e poi sì, è stato faticoso ritrovarla. Comunque mi fa molto piacere. No, volevo fare quando ci si cerca ci si trova sempre. Ah, ha ragione. Comunque con molto piacere da parte mia. Volevo dire qualche cosa sul fatto dei ragazzi, della TV dei ragazzi. Insomma, io sono del 52, quindi sono nato e cresciuto un po' anch'io con Razzi e Rin Tin Tin, no? Soprattutto il primo, convengo con lei, che rivisitato dopo e soprattutto riscoprendo com'era la vera storia, era evidente che, insomma, io sto dalla parte degli indiani, quindi il piccolo Rusty oggi lo giudico come lei un personaggio assolutamente inquietante. Sì, era un po' antipatico. Ecco, però voglio ricordare anche tutte le varie situazioni piacevoli che proponeva la TV dei ragazzi, per esempio i programmi di Silvio Noto, di Febbo Conti, che invitava le scolaresche e faceva in modo che si parlasse di storia, di geografia, insomma, di quella che era non solo la cultura scolastica. E poi per esempio anche un fatto importante, una chiamiamola fiction oggi, no? Ma comunque uno sceneggiato basato sulla sportività, che si chiamava La squadra di Stoppa, e che dovrebbe essere riproposto, soprattutto visto quello che succede oggi nei campi. Ecco, vedo che lei ha spento il telefonino, qualcuno la sta sentendo per radio, la sta chiamando per dire ti sto sentendo per radio. Melog 2.0. Sei molto coraggiosa, Pippi. Somiglio a te, papà. Ci sono delle barche in vista a poppa! Oscar! Oscar, ce n'avete messo del tempo per arrivare qui! Arrivate proprio al momento giusto! Credo che Bloodfent abbia bisogno di rinforzi! Riprendiamo la nostra nave, Pippi, calze lunghe! Attento a non cadere in acqua! Trovo molto singolare che Pippi Calzelunghe, che appassiono me, appassionò tutti i miei fratelli minori, continua a appassionare i miei figli. Esiste un canale tematico nella televisione di Sky che continua a mandare tutti a rullo, che poi sono limitati nel tempo, tutte le avventure di questa bambina svedese dai capelli rossi, totalmente surreale, dotata di una forza mostruosa, figlia di un pirata, che anche lei ha un cavallo bianco, una scimmiettina, con due figli all'occhi di una famiglia medio borghese svedese, una mamma terrificante, con un papà idiota, che hanno il loro paese di balocchi a casa di Pippi. Quella società svedese gelida, terrificante, spaventosa, priva di ogni felicità, in cui anche i dolci sembrano finti, sembrano oggetti di plastica, questi bambini biondi senza espressione e tutti terribili, con dei sandalini con i calzini sotto, una mamma vestita anni 60, con una casa piena di oggetti kitsch, con un padre con degli occhiali perennemente imbambolato, per farvi un esempio, una signora va in un negozio di stoffe mentre Pippi ruba, non so, manichine e cose del genere, e compra una stoffa grigia e dice: ma non sarà troppo vivace? Alla signora che vende la stoffa. Questo è il clima in cui si manifesta questa totale dissacrante e diseducativa bambina, totalmente anarchica, che fa delle cose terribili, salta dalle finestre, uno ha anche paura di farla vedere. Carlo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Io, Pippi, se non ricordo male, era olandese. No, svedese, tranquillo. Era svedese. Su Pippi sono molto, molto dotato, continuo a vederla da anni, tutti i giorni. Ricordo Zorro, mi ricordo Furia, mi ricordo Il tesoro del castello senza nome, mi ricordo La freccia nera, Michele Strogoff. Oggi tutto questo non c'è più, però... Si rende conto per una cosa? Lei ha mediato una serie di classici per l'infanzia, che sono sempre passati attraverso un supporto librario, perché l'ha appresi tramite la televisione. Oggi c'è stata una crasi totale, non so se è un bene o sia un male, con un filone ininterrotto di letteratura per l'infanzia. Leggeranno altre cose, leggono molti bambini, perché la televisione non li rappresenta più come sceneggiati. Però esistono ancora, come diceva lei, canali tematici, e esistono i DVD. Io per mio figlio prendo questi, e poi ho preso anche un libro che si intitola Il pericoloso libro delle cose da vero uomo. Me lo racconti, che mi piace. Sì, è stato un grosso successo in Inghilterra due o tre anni fa, e adesso da qualche mese anche in Italia. Insegna a costruirsi una fionda, a costruirsi un arco, a cacciare e scuoiare conigli, a costruirsi... Stia attenta, perché guardi, l'Italia delle gattare, che sta in questo momento rivoltandosi contro il povero Bigazzi, semplicemente perché ha raccontato che nel Vicentino qualcuno il gatto se lo bolliva, però toccare i gatti è qualcosa di assolutamente improbabile, ma il povero coniglietto lo vogliamo mettere. Lei pensa che il coniglio in umido, io vado al macellaio e vedo conigli scannati e spellati, una cosa orribile. Se penso al coniglietto di Alice nel Paese delle Meraviglie, a Fratel coniglietto di Topolino, io ho una profonda commozione per i conigli, perché nessuno si indigna se mangio il coniglio. Se adesso racconto, il coniglio si prende per le zampe, si dà una bella stirata, bisogna dargli un colpo forte sulla nuca e si dà una bella allungata, il coniglio a quel punto muore. Poi si prende, si scuoia, si comincia a aprire da sotto la pancia. Io posso dire, io ho scuoiato conigli, quindi so come si fa. Se lo raccontassi però nessuno si indignerebbe. Per il gatto invece non si può nemmeno allucinare il fatto che in certe epoche, in certe latitudini, i gatti si mangiano tranquillamente. Scusi, chiusa la parentesi. Sì, era una realtà del passato e non vedo perché non possa essere raccontata. Perché l'ipocrisia gattara è uno dei più grandi compensatori emotivi della nostra società di allocchi. Sì, come il falso pietismo e il politicamente corretto. Bravo, vedo che finalmente trovo persone che mi capiscono. Beh, mi dica un'altra cosa pericolosa da insegnare a un figlio. Allora, penso che nessun genitore oggi sappia fare una fionda, sappia fare un arco, sappia rompere un vecchio ombrello per fare quelle pericolosissime freccette con le stecche d'ombrello. Ma infatti, secondo me, questo libro serve anche ai genitori che non hanno, o che non ricordano più, o che non hanno mai imparato queste cose da piccoli. Anche se può sembrare un po' patetico a una certa età, però potrebbe essere utile anche per i genitori. Usi un laccetto di fieno per prendere lucertole e staccare la coda alle lucertole? Questa è un'altra cosa, se dico adesso mi denunciano subito. Una delle cose più divertenti era staccare la coda alle lucertole, non gli fa male alla lucertola. Uno prende la lucertola con un laccettino di fieno, la prende delicatamente, tira la coda e gliela stacca. La lucertola è a coda autostaccabile, non soffre, la lucertola scappa via mozzata, a coda mozza, e la coda continua a agitarsi ancora per tanti minuti. E dicevano, almeno noi pensavamo, che poi ne ricrescevano due, quindi pensavamo di fare qualcosa di bene per quella lucertolina, che pensa meglio e ne ricrescono due. Sì, lo pensavo anch'io, è vero, lo pensavo ai miei tempi, io sono del 1970 e 30 anni fa pensavo questo. E lei provi oggi a scrivere un pezzo su un giornale, dire come si stacca la coda alle lucertole, e la vengono a prendere sotto casa, la ricoprono di piume, di pece, la portano via. Anna Maria. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti. Io, mi senti? Certo. Ah, ok. Perché stai ansimando? Perché passeggio, sto camminando per le vie di Milano, del mio quartiere. Le stesse vie dove ho incontrato qualche tempo fa l'icona della mia infanzia, Franco Cerri, il grande chitarrista, che quando io ero piccolina conduceva un programma che si chiamava Chitarra e Fagotto. Era un programma per bambini, un programma dove noi bambini venivamo considerati destinatari di un messaggio intelligente. Era lo stesso, faceva la pubblicità poi del sapone immerso nell'acqua, se non sbaglio. Faceva un carosello poi in cui stava per vedere la reclame. L'unica bambina che non vedeva carosello.